Sai che le case discografiche in questo festival non ci credevano? Ma va, Marina, come al solito le case discografiche ci capiscono. No, ma in quel momento proprio hanno detto no, assolutamente sì, fatevi il vostro festival, i nostri cantanti vengono, suonano, fanno quello che vogliono, però non li registriamo, e molti infatti non l'hanno fatto. Fortunatamente in quel festival c'era Martin Scorsese. Ecco, sai perché ho nominato Martin Scorsese? Ecco, dimmi. Perché a parte le case discografiche c'era anche quella cinematografica. Allora immagina un festival con 20 telecamere, quindi 20 operatori, 20 aiutanti al suono, eccetera, che arrivano completamente strafatti. E si perdono il sync, cioè c'erano i ciak ancora, quindi mettono la musica da una parte. Sì, era veramente un delirio. Allora, finito il festival, prendono 51 chilometri di pellicola. Li mettono in uno studio, mettono Martin Scorsese dentro e lui è addetto al montaggio. Ti ricordi sul festival, vedevi sul grande schermo quelle 3-4 immagini simultanee? Sì, tutti picture dissero, in picture si hanno dice. Detto, Madonna, che genio questo montatore. Ma sì, era un genio, però non è stata una cosa artistica, era proprio una necessità. Perché è così importante Woodstock? È diventato importante Woodstock dopo il festival, sono arrivate 1 milione di persone, si è creata una città nella città. Tu pensa soltanto alla logistica, alle strade che si erano. Non se l'aspettava. Guarda, io sono stato a Woodstock, sono stato a Monticello dove si è svolto il festival, e ti devo dire che dopo tanti anni ancora sono traumatizzati, felici moltissimi di loro ovviamente, perché ancora ci va gente a visitarlo, però diciamo che in quel momento è stato un momento di panico un po' per tutti, elicotteri, ospedali, immagina proprio la logistica di portare 1 milione di persone completamente inaspettate nello stesso posto a sentire la musica. E sei informatissimo quindi, perché sei stato lì non a Woodstock ma a Monticello, che mi fa ridere. E lo so, infatti dovrebbero fare le magliette. Io ero convinta di andare a Woodstock, invece devo andare a Monticello. Un'ora e mezza di strada da Woodstock. No, quando io sono arrivato negli Stati Uniti nel 1979 ho detto, ma 10 anni fa c'è stato il festival di Woodstock, quindi sono andato e ho parlato con il capo della polizia, con quelli che preparavano i panini, con i responsabili degli ospedali. Poi ho trovato i manager, quelli che avevano organizzato, Michael Lang, Jerry Rubin, quelli dei Chicago 8, insomma ho parlato un po' con tutti e ho fatto un documentario che si chiama appunto Woodstock 10 anni dopo. Ho conosciuto moltissimi artisti, ho conosciuto Arlo Gatri, Country Joe and the Fish, Santana, il suo batterista in particolare Michael Shirv, che è un ragazzo mito. Fantastico, e mi sono tolto la soddisfazione poi di andare nel ranch di questo cantante ad intervistarlo. Ve lo faccio ascoltare. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Il grandissimo Joe Cocker. Ha intervistato Joe Cocker. Sì, sono andato nel suo ranch in California e ci siamo molto divertiti. Mi ha fatto sentire anche un bel po' di brani nuovi alla chitarra quel giorno. Comunque il brano è dei Beatles, però questa sua interpretazione è rimasta veramente leggendaria. Riprendiamo dopo la viabilità. Mix 24 estate. Bentrovati su Mix 24 estate. Quindi Franco Schipani, un 1969 ricco di cose, fatti, avvenimenti, dimentichiamo qualcosa. Fie, festival, movimenti giovanili, di tutti i tipi di musica. Dimentichiamo qualcosa o qualcuno? I Beatles e i Rolling Stone vanno a Woodstock? Assolutamente no, non ci pensano neanche ad andare a Woodstock, anche perché i Beatles erano addirittura d'arrivo. Invece i Rolling Stones avevano così scelto di fare un altro tipo di lavoro. Ormai sai, loro non erano bisogno di Woodstock per fare 500.000 persone, li facevano tranquillamente da soli. E i Beatles invece si stanno per separare. Si stanno per separare, però non è che si stanno per separare e non compongono più canzoni. Guardate un po' in quell'anno che tipo di canzoni, che canzoni facevano i Beatles. He got

Sorpresa dagli occhi blu, Mario Tessuto, Sole di Franco IV e Franco I e Hai le Hawaii di Herbert Pagani. Sì, Marina, siamo tornati sulla terra. Okay, dopo, infatti dalla regione dicevano, ma come, dopo Woodstock mi fai questo messaggio con l'isola degli occhi blu? Ragazzi, era ebbene, quello che sì, si era quello, in Italia quello. In quel periodo si suonava quello l'estate. Allora, dato che è estate, dato che fa molto caldo, beh, abbassiamo la temperatura. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì che t'amerei. Scende la pioggia di Gianni Morandi, magari col caldo che fa fuori. Ma che freddo fa! Brrr, nada! Nada! Allora Marina, chiudiamo, ci salutiamo con questo racconto degli anni 60. Sì, chiudiamo con il 1969. Speriamo di tornare, fare appuntamenti con la musica, chissà, di quegli anni, magari del decennio, no? Dopo gli anni 60. Comunque, come chiudiamo? Concludiamo in bellezza. E su queste atmosfere da 007 salutiamo Marina. Buona estate a tutti da Marina Milone e Franco Schipani. Ciao.